Mixer Tisci. Davide, come sta? Me lo hai mai chiesto? Chiama un'ambulanza, frate, fai presto. Che il sogno che avevo non è mai questo. Mi sveglia, mi prende a chiacchi e poi mi dà il resto. Scelgo te, anche se l'amore temo te. Il cuore mio è colpevole, fa vedere lei, rende cieco me. Se sono morto tu sei Persefone. Perché ho dato ancora retta a quel demone. E adesso giro per le stanze della casa come quando stavo ai domiciliari. Con la collezione dei medicinali, stavo sotto, non mi accorgevo che recitavi. È dall'alba dei tempi che fare così ci ha reso schiavi. Ma migliorare non siamo bravi, però andare nel baratro siamo i capi. Usare questi occhi come cineprese per riguardare tutto quanto a fine mese. Se rimango in coma strappami le prese. Che vivere cos'è, una tortura cinese. Che scelgo me o scelgo te? Che scelgo me o scelgo te? Che scelgo me o scelgo te? Scelgo me o scelgo te? Scelgo me o scelgo te? Cascano dal cielo come lacrime gli angeli che pregano per Davide. Mi hanno inciso il nome sulla lapide, ma io scappo via, gli dico di no. E cascano come un temporale, cascano come un temporale, cascano come un temporale. Loro cascano come un temporale, poi cascano come un temporale, cascano come un temporale, cascano come un temporale, poi cascano come un temporale. Qui si vive bene, non l'ho mai letto, per questo ho le sostanze nello zainetto. Di te scrivi tutto quello che hai dentro, poi lo faccio e dici scusa che hai detto. Che mi lamento, perché una vita che qua tira vento. Il treno della gioia non arriva in tempo, e a forza di aspettare ci sto rimanendo. Ma nonostante questo, frate, mica scendo. Sto sui binari finché non mi arriva dentro. E mi porta via dove c'è solo lei a farmi compagnia. Che mi spiega che non è colpa mia se la verità qua è un'anomalia. Che se vivere è questo, io mi voglio dare fuoco. Questi mi chiedono di fare foto, non sanno che nel cuore c'è il maremoto. Vivere male non apprezzo. Ti scava il petto con un attrezzo. Ti fa sentire un dio maledetto. Forse per te non ha senso, per me invece ce l'ha. Che scelgo me o scelgo te?